ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Vestita di seta. Non arrivò nessuna lettera di Clara Gulla, né per il padre, né per la madre. Ma poco importava ormai, dal momento che si sapeva che il suo silenzio non aveva altro scopo che aumentare la loro sorpresa e la loro gioia quando fosse arrivato il giorno di annunciare la grande novità. Ad ogni modo, era un bene per Lian che gli fosse trapelata qualche notizia su di lei, perché altrimenti avrebbe facilmente potuto essere preso per pazzo dagli altri, che credevano di saperne più di lui sulle sorti di Clara Gulla. Basti pensare, per esempio, a quella volta di Katrina in chiesa. Era andata in chiesa la prima domenica d'avvento, e al ritorno era piena di apprensioni e triste. Aveva incontrato un paio di giovanotti che avevano lavorato a Stoccolma quell'autunno, nelle costruzioni, ed erano lì, fermi a parlare con gli altri giovani, ragazzi e ragazze. Vedendoli a Katrina, era venuto in mente che loro avrebbe tutto detto la notizia di Clara Gulla. Si era perciò avvicinata per interrogarli. Stavano certo parlando di qualche divertente prodezza. Gli uomini almeno ridevano così forte che a Katrina parve persino un po' sconveniente così vicina alla chiesa. E dovettero pensarlo anche loro, perché al suo avvicinarsi si diedero delle gomitate e tacquero. Katrina udì soltanto qualche parola pronunciata da un giovane che volgeva le spalle, e quindi certamente non l'aveva vista. «E pensate che era vestita di seta!» stava dicendo. E subito si era preso da una ragazza uno spintone così forte che ammutolì di colpo. Si guardò intorno. E quando si accorse che Katrina stava proprio dietro di lui, si fece tutto rosso, ma subito dopo scosse la testa e disse a voce alta: «Che ti prende? Perché non dovrei dire che la regina andava vestita di seta?» A queste parole tutti i giovani scoppiarono a ridere peggio di prima. Katrina si limitò a passare davanti a loro, senza potersi risolvere a far domande. Tornò dalla chiesa così preoccupata che Jan fu sul punto di spiegarle come stessero davvero le cose riguardo a Clara Gulla. Ma si ricredette e la pregò soltanto di raccontare ancora una volta quel che avevano detto della regina. Cosa che lei fece. «Ma capirai», soggiunse, «che l'han detto soltanto per rigirare la cosa davanti a me». Jan continuò a non dir nulla. Ma non ti potrebbero mettere in pace le labbra in un sorriso. «A che pensi?» chiese Katrina. «Hai un aspetto così strano da qualche giorno. Non saprai mica che cosa alludevano». «No, non lo so davvero», rispose Jan. «Ma certo dobbiamo avere tanta fiducia nella ragazzina, mia cara Katrina, da non aver paura che tutto vada come deve andare. Sono così angosciata». «Non è tempo di parlare, né per loro né per me», l'interruppe Jan. «È la stessa Clara Gulla che li ha pregati di non dirci niente, e noi dobbiamo starcene tranquilli, Katrina. Ecco che cosa dobbiamo fare». Stelle. Quando la ragazzina di Skrolica era via da quasi 8 mesi, un bel giorno Ingborg, la scema, arrivò col suo passo pesante sull'aia di falla mentre Jan era lì a trebbiare. Ingborg, la scema, era cugina di Jan, ma non si vedevano che raramente, perché lei aveva paura di Katrina. Era appunto per evitare di incontrare la moglie che veniva a cercarlo a falla, nel mezzo del lavoro. Jan non fu affatto contento di vederla. Non che lei fosse veramente pazza, che certo non lo era. Qualche rotella comunque le mancava e non faceva che ciarlare per dritto e per traverso. Jan continuò a battere il correggiato facendo finta di non vederla. «Smetti un po' di trebbiare, Jan», disse Ingeborg, «che ti devo dire una cosa, che ho sognato di te stanotte». «È meglio che ritorni un'altra volta, Ingeborg», disse Jan. «Appena Lars Gunnarsson sente che mi riposo dalla battitura, verrà a vedere che cosa succede». «Farò presto, prestissimo», obiettò Ingeborg, la scema. «Ti ricorderai bene che in casa io ero la più svelta della famiglia. Vabbè che lo erano così poco gli altri in tutto, che non ci voleva molto». «Dovevi raccontarmi un sogno», ricordò Jan. «Subito, subito, non avere paura, capisco, capisco. Padrone rigido, ora falla, padrone rigido, ma non stare a preoccuparti, non avrai rimproveri per causa mia, niente paura. Quando si ha a che fare con una persona intelligente come me, niente paura». Jan avrebbe ascoltato davvero con piacere quel che Ingeborg aveva sognato di lui, perché, per quanto sicuro si sentisse delle sue grandi aspettative, cercava tuttavia conferme da ogni parte. Ma Ingeborg, la scema, si era ormai lanciata a seguire i propri pensieri e non era facile frenarla. Si accostò vicinissima a Jan e, chinandosi in avanti, ad ogni frase, rizzando gli occhi, scuotendo il capo, parlò così precipitosamente che le parole sprizzavano dalla bocca. «Non aver paura», disse. «Credi che mi metterei a parlare con uno che Trebbi affalla, se non sapessi che il padrone è andato nel bosco e che la padrona è in giro a vendere il burro? Abbili sempre davanti agli occhi. Sta scritto nel catechismo, è quel che ho imparato. Mi guardo bene dal venire qui quando possono vedermi». «Scansati, Ingeborg», interruppe Jan. «Potrei colpirti col correggiato. Pensare a quanto mi battevate un tempo, voi ragazzi», continuò lei. «E di botte ne prendo ancora, eh? Ma quando dovevamo rispondere all'esame di famiglia, allora sì che ero pronta. Non c'è nessuno che mette nel sacco Ingeborg», diceva il prevosto. «La sa lei la sua parte. E poi sono così buona amica delle signorine di Lövdala. Recito loro tutto il catechismo, domande e risposte, dal principio alla fine. Pensa, ho una memoria io. So tutta la Bibbia, tutta, e tutto il libro dei Salmi, e tutte le prediche del prevosto. Devo recitarti qualcosa? O preferisci che canti?» Jan non rispose più nulla e riprese la trebbiatura. Ma non per questo Ingeborg se ne andò. Sedette su una fascina di paglia, cantò prima un salmo di una ventina di versetti e recitò quindi un paio di capitoli della Bibbia. Alla fine se ne andò, senza salutare, e non si fece più vedere per un bel po', ma di punto in bianco ricomparve all'entrata dell'aia. «Zitto adesso, zitto!» esclamò. «Ora non diremo nient'altro che quel che dobbiamo dire, soltanto zitto!» Levò in alto l'indice, si irrigidì tutta e spalancò gli occhi. «Non pensiamo ad altro, non pensiamo ad altro!» disse. «Teniamoci ai fatti, ma stai fermo con quel correggiato ora!» Aspettò che Jan l'obbedisse. «Sei venuto a trovarmi in sogno stanotte, sì, proprio così! Sei venuto da me e io ti ho detto, te ne vai a spasso, Jan delle Valli della Cenere?» «No!» hai risposto. «Ora mi chiamo Jan delle Valli della Nostalgia! Allora benvenuto!» ti ho detto, «perché è lì che io ho vissuto tutta la mia vita!» E ci ho detto, scomparve. Jan fu sorpreso delle sue parole e rimase lì a riflettere senza riprendere il lavoro. Qualche istante dopo Ingeborg era di nuovo lì. «Ora mi ricordo perché ero venuta», disse. «Volevo mostrarti le mie stelle». Aveva al braccio un cestino legato con una pezzuola. Mentre tirava per disfare il nodo, non smetteva un attimo di chiacchierare. «Sono vere stelle queste. Quando uno abita nelle valli della nostalgia, non si accontenta più delle cose terrene, ma è costretto ad andare in cerca delle stelle. Non c'è scelta. Dovrai andarle a cercare anche tu ora». «Ma no, dai, Ingeborg», rispose Jan. «Io mi accontento di quel che si trova sulla terra». «Zitto, per carità!» fece Ingeborg la scema. «Credi che io sia così matta da voler prendere le stelle che sono rimaste in cielo? Io cerco soltanto quelle che sono cadute. Sono una persona di buon senso, io». Aprì il cestino e Jan vide che era pieno di stelle di ogni tipo, che doveva aver raccattato mendicando in giro per i poderi. Erano stelle di stagnola, di carta, di vetro, ninnoli tolti da alberi di Natale e caramelle. «Sono stelle vere», disse. «Sono cadute dal cielo. Tu sei il solo che le abbia mai viste e potrai averne qualcuna quando ne avrai bisogno». «Grazie, Ingeborg», disse Jan. «Quando avrà il tempo in cui avrò bisogno di stelle, e sarà forse presto, non ci penserò su due volte a chiedertele». E Ingeborg finalmente se ne andò. Ma Jan rimase lì fermo per un po', prima di riprendere la trebbiatura. Era un avvertimento anche questo. Non perché una svanita come Ingeborg potesse sapere qualcosa sulla sorte di Clara Gulla, ma era di quelli che sentono nell'aria quando sta per accadere qualche fatto meraviglioso. Vedeva e udiva cose che intelligenti neanche sospettavano. Sì, era proprio così. Nell'attesa. L'ingegner Boris di Borg quasi ogni mattina era solito fare una passeggiata fino al pontile per aspettare l'arrivo del vaporetto, e non c'era da stupirsene, visto che non aveva strada da percorrere attraverso il bel bosco di abeti, e senza dubbio col battello arrivava sempre qualcuno con cui scambiare due chiacchiere e offrire un piccolo diversivo alla monotonia della sua vita campagnola. Proprio al limitare del parco, dove il sentiero iniziava a scendere molto ripido verso il pontile, affioravano da terra delle grandi pietre nude che la gente venuta da lontano usava spesso per sedersi ad aspettare. Ed erano sempre in molti in attesa al pontile di Borg, perché non si era mai veramente sicuri degli orari del battello. Era raro che arrivasse prima delle 12, ma poteva anche darsi il caso che alle 11 fosse già davanti al pontile, come non si poteva affatto escludere che tardasse anche fino all'1 o alle 2. E così, le persone previdenti che scendevano al pontile verso le 10, capitava che dovessero star lì anche tutta la mattinata. Dalla finestra della sua camera, a Borg, l'ingegnere Burris godeva di un'ampia vista sull'Ersio. Poteva scorgere il vaporetto appena spuntava dai promontori, e non si faceva mai vedere sul pontile prima del tempo. Non aveva quindi bisogno di stare anche lui ad aspettare seduto su quelle pietre, e si limitava a gettare un rapido sguardo di sfuggita a chi vi si trovava. Ma un'estate non poté fare a meno di notare un ometto dall'aspetto mite e gentile, che giorno dopo giorno stava lì ad aspettare. E rimaneva perfettamente immobile ed indifferente finché non appariva il vaporetto. Allora balzava in piedi, col viso raggiante di gioia. Si precipitava giù per la discesa e si metteva all'estremità del pontile come se fosse sicuro di ricevere qualcuno. Ma non arrivava mai nessuno per lui. E quando il battello ripartiva restava lì, solo, come prima. Ma allora la gioia era sparita, e quando si incamminava verso casa appariva vecchio e stanco, al punto che si poteva quasi temere che non avesse la forza di risalire il pendio. L'ingegnere Burris non conosceva quell'uomo, ma in una bella giornata di sole, vedendolo seduto al suo solito posto a guardar fisso verso il lago, si mise a conversare con lui. Venne così a sapere che una figlia era partita, e che quel giorno si attendeva il suo ritorno a casa. «Siete proprio sicuro che arriverà oggi?» chiese l'ingegnere. «Vi ho visto star qui seduti ad aspettarla da almeno 2 mesi. Deve avervi dato delle informazioni sbagliate prima.» «No, non ha dato informazioni sbagliate, no. Ma in nome del Signore!» esclamò l'ingegnere accalorandosi, essendo un tipo irascibile. «Che intendete dire? Siete stato qui ad aspettarla giorno dopo giorno senza che lei arrivasse e secondo voi non ha dato informazioni sbagliate?» «No», disse l'ometto guardando l'ingegnere con quei suoi occhi affettuosi e limpidi come l'acqua. «Non ha potuto farlo, dal momento che non ha dato nessuna informazione.» «Non avete ricevuto qualche lettera?» chiese l'ingegnere. «No, non abbiamo più avuto lettere dal 1 ottobre dell'anno scorso.» «E allora perché venite qui?» domandò stupito l'ingegnere. «State qui seduto tutte le mattine senza far niente. Avete il tempo di allontanarvi in questo modo dal lavoro?» «Oh no, non è proprio ben fatto da parte mia», disse l'uomo sorridendo a se stesso. «Ma tutto si arrangerà.» «Ma è possibile che siate così stupido?» esclamò l'ingegner Burris indignato, «da venire tutti i giorni ad aspettare senza ragione? Dovreste essere messo al manicomio.» L'uomo non rispose nulla. Continuò a restare lì, con le braccia incrociate intorno alle ginocchia, senza la minima reazione. Il sorriso non aveva abbandonato le sue labbra e si faceva anzi man man più esultante. L'ingegnere scrollò le spalle e si allontanò. Quando però fu giunto a metà del pendio, si pentì e tornò indietro. Aveva un'espressione buona ora, e tutta quell'amarezza abitualmente diffusa sui suoi tratti severi ora era scomparsa. Tese la mano a quell'uomo. «Vorrei soltanto stringervi la mano», disse. «Finora credevo di essere in tutto il circondario la capienza più lunga con una nostalgia, ma ora vedo che ho trovato chi mi supera.» L'imperatrice. La ragazzina di Skrolica era lontana da 13 mesi interi, senza che Jansi fosse lasciato scappare una sola parola su quanto aveva intuito del grande avvenimento che le era capitato. Si era messo in testa che doveva tacere finché non fosse tornata. Se Clara Gulla non sapeva che lui era già in qualche modo al corrente, sarebbe stata per lei una gioia ancora più grande poterlo sorprendere con tutta la sua magnificenza. Ma a questo mondo accade più facilmente l'imprevisto che non ciò che si aspetta. E venne un giorno in cui Jan fu costretto a togliere il suggello dalle labbra e rivelare come stessero le cose. Non per se stesso, no, Per parte sua sarebbe stato perfettamente contento di continuare ad andare in giro lasciando credere alla gente che era soltanto un povero contadino, finché così doveva essere. Ma per amore della ragazzina si sentì obbligato a svelare il grande segreto. Fu un giorno all'inizio di agosto. Era stato al pontile ad aspettarla. Perché, ecco, scendere al pontile ogni giorno per poter assistere al suo arrivo era qualcosa a cui non poteva rinunciare. Né d'altra parte lei avrebbe potuto aversene a male. Il vaporetto s'era appena accostato, ed egli aveva visto che Clara Gulla non c'era. Eppure era convinto che ormai dovesse essere pronta in tutto e per tutto e potesse quindi ritornare a casa. Ma sicuramente erano intervenuti nuovi ostacoli, come era successo per tutta l'estate. Non era tanto facile liberarsi perché aveva tante cose a cui star dietro. Un gran peccato, tuttavia, che non fosse arrivata quel giorno che c'erano stranamente tante vecchie conoscenze giù al pontile. Si trovavano sia il deputato Carl Carson di Strövik che August Darnold di Prasterud. C'era il genero di Björn Hindriksson ed era capitato lì perfino il vecchio Agrippa Prasberg. Agrippa ce l'aveva ancora con la ragazzina da quando gli aveva giocato quel tiro degli occhiali. Jan non poteva negare che sarebbe stato ancor più bello se Clara Gulla fosse potuta apparire sul battello in tutto il suo splendore proprio quel giorno che c'era a Prasberg a vederla. Ma dal momento che non era arrivata, non gli restava proprio altro da fare che tornare a casa. Stava giusto per scendere dal pontile quando il vecchio maligno Greppa gli sbarrò la strada. «Ah!» disse. «Sei corso ancora qui a cercare tua figlia anche oggi? Con un tipo come Greppa è meglio evitare di scambiar parola». E Jan si limitò a scansarsi per passare oltre. «Già, non mi meraviglio che tu voglia andare incontro a una dama così fine come pare proprio che sia diventata», disse Greppa. In quel momento August Darnold si precipitò su Greppa e lo tirò per il braccio perché tacesse. Ma Greppa non desisté. «Tutto il comune lo sa», continuò. «Ed è tempo anche che i genitori siano informati di come vanno le cose. Jan Andersson è un bravo uomo, anche se ha viziato sua figlia. Io non posso più sopportare di vederlo venire qui per settimane e settimane ad aspettare una...» E qui disse una parola così brutta sulla ragazzina di Scrolica che Jan, suo padre, non la volle più ripetere, neppure nei suoi pensieri. Ma ora che Agrippa Prasberg gli aveva gettato in faccia e ad alta voce quella parola, che tutta la gente del pontile aveva potuto sentire, tutto quello che Jan aveva taciuto per un anno, proruppe fuori. Non poteva più tenere il suo segreto. La ragazzina doveva perdonarlo se la tradiva. Disse quel che doveva dire senza nessun accenno d'ira o di arroganza. Fece un gesto con la mano, serrando le labbra come se disdegnasse rispondere. «Quando l'imperatrice verrà...» «L'imperatrice? E quale?» sogghignò Greppa. Quasi non sapesse nulla di quanto era salita in alto la ragazzina. Jan di Scrolica non si lasciò turbare e proseguì con la stessa calma. «Quando l'imperatrice Clara di Portugallia starà qui sul pontile con una corona d'oro sul capo, e 7 re cammineranno al suo fianco reggendole il mantello, e 7 leoni giaceranno ai suoi piedi, e 7 condottieri la reggeranno con la spada sguainata in mano, allora vedremo se oserai dirle in faccia quel che hai detto a me oggi». Quando ebbe finito di parlare, restò un momento fermo, compiacendosi nel vedere lo spavento generale. Poi si girò sui talloni e se ne andò. Ma senza la minima fretta, si intende. Ci fu un gran baccano e tumulto sul pontile non appena ebbe voltato le spalle. Dapprima Jan non se ne curò, ma poi sentì un tonfo pesante e fu costretta a girarsi a guardare. Il vecchio Greppa giaceva riverso sul pontile, e August Darnold stava chino su di lui con i pugni serrati. «Lo sapevi bene, pezzo di galera, che non avrebbe sopportato di sentire la verità», diceva August. «Non devi avercelo un cuore dentro al corpo, tu». Fu solo questo che udì Jan di Scrolica. Perché tutto quel che sapeva di litigio e rissa gli ripugnava. Proseguì dunque su per la salita, senza volersi mischiare nella faccenda. Ma la cosa strana fu che, appena giunto fuori dalla vista di tutta la gente, fu assalito da violenti e profondi singhiozzi. Non riusciva a spiegarsi il perché. Erano forse lacrime di gioia per aver potuto svelare il segreto? Gli sembrava che la ragazzina gli fosse stata restituita. L'imperatore. La prima domenica di settembre, i parrocchiani di Svarzo ebbero a buon titolo ragione di meravigliarsi. Nella chiesa di Svarzo c'è una grande e ampia tribuna che traversa da parte a parte tutta la navata maggiore. e al primo banco della tribuna, da tempo immemorabile, erano solite sedere le personalità, i signori a destra e le signore e le signorine a sinistra. Nessuno aveva mai vietato agli altri di mettersi lì. I posti della chiesa erano tutti ugualmente liberi, ma mai sarebbe venuto in mente a un povero contadino di andarsi a sedere là in alto. Un tempo Jan trovava che erano davvero belli ed eleganti i signori che occupavano quei banchi, e anche quella domenica non poteva negare che sia il padrone delle ferriere di Duvnas che il tenente di Lövdala e l'ingegnere di Borg erano persone di gran figura e di bell'effetto. Ma che cosa erano al confronto della magnificenza che la gente avrebbe potuto d'ora in poi contemplare? Era certo la prima volta che lassù, nel banco delle personalità, prendeva posto qualcosa come un vero imperatore. In ogni caso, quel giorno un tale personaggio occupava il primo posto, all'estremità del banco. Teneva entrambe le mani appoggiate su un lungo bastone dal grande pomo d'argento. In testa aveva un alto berretto di cuoio verde e sul petto rilucevano due grandi stelle, una d'oro e l'altra d'argento. Quando l'organo cominciò a suonare, l'imperatore elevò la sua voce nel canto. Perché un imperatore deve cantare in chiesa a voce alta e chiara, anche se stona e sbaglia la melodia. La gente è pur sempre lieta di poterlo ascoltare. I signori che sedevano vicino a lui si voltavano a guardarlo di tanto in tanto. Ma c'era forse da meravigliarsene? Era ben la prima volta che avevano in mezzo a loro un personaggio così illustre. Il berretto prima o poi fu costretto a toglierselo, perché anche un imperatore deve stare a capo scoperto quando è in chiesa. Ma se lo tenne il più a lungo possibile, affinché la gente potesse saziarsi della sua vista. Anche molti di coloro che sedevano in basso nella chiesa quel giorno volgevano la testa a guardare verso la tribuna. Era come se pensassero più a lui che alla predica, il che era ben scusabile. Certo, sarebbe rientrato tutto nell'ordine non appena si fossero abituati al fatto di avere un imperatore in chiesa. Erano forse un po' stupiti che Jan fosse salito tanto in alto, ma avrebbero dovuto capire che chi era padre di un'imperatrice doveva diventare imperatore. Non era possibile altrimenti. Quando, dopo il servizio divino, Jan uscì sul sagrato, vi furono molti che gli si avvicinarono, ma non fece in tempo a parlare con nessuno perché il sacrestano Svartlik venne subito a pregarlo di accompagnarlo in sacrestia. Il pastore era seduto su un'altra poltrona, con la schiena rivolta alla porta, e stava parlando con il deputato Karl Carlson quando entrarono Jan e il sacrestano. Il pastore era addolorato per qualche motivo, lo si sentiva dalla voce, ci mancava poco che piangesse. «Sono due anime affidate alla mia cura», diceva, «che ho lasciato andare in rovina». Il deputato cercava di rincuorarlo. «Ma non potete avere nessuna colpa della cattiveria che regna nelle grandi città», diceva. Ma il pastore non si lasciava consolare. Chinò il bel viso gentile fra le mani e pianse. «No, non posso certo averne colpa». Ma che cosa ho fatto per vegliare su quella giovinetta diciottenne gettata senza difesa nel mondo? E che cosa ho fatto per consolare suo padre che aveva in lei il solo scopo della sua vita? È così da poco che siete arrivato nella parrocchia, disse il deputato. Se si deve parlare di responsabilità è piuttosto su di noi che ricade, che eravamo al corrente della situazione. Ma chi poteva credere che le cose sarebbero finite con disamante? I giovani hanno pure il diritto di andarsene nel mondo. Tutti nel nostro comune vi siamo stati gettati nella stessa maniera e ai più è andata bene. Ah, Dio, potessi parlargli, pregò il pastore, potessi fermare la sua ragione che fugge. Il sacrestano Svartling, entrando con Jan, tossicchiò con discrezione e il pastore si voltò verso di loro. Subito si alzò in piedi, prese la mano di Jan e la tenne nella sua. Caro Jan, cominciò. Il pastore era alto, biondo e bello. Quando si rivolgeva a qualcuno con la sua voce calda e coi suoi occhi miti, azzurri, splendenti di carità, non era facile resistergli. Ma in questo caso non c'era altro da fare che rimetterlo al suo posto fin dal primo momento. E così fece Jan. «Non c'è più Jan, mio buon pastore. Ora c'è l'imperatore Johannes di Portugallia. E a chi non vuol chiamarlo con il suo giusto appellativo, egli non ha niente da dire». E con questo, Jan rivolse al pastore un breve, imperiale cenno di commiato, e si rimise in testa il berretto, e i tre rimasero lì, nella sacrestia, del tutto sconcertati quando l'imperatore aprì la porta, e se ne andò. Ignazio Oliva ha letto